Europa 24. Quale Parlamento europeo si prepara nei prossimi 5 anni di legislatura? Buongiorno da Sergio Nava. Oggi a Europa 24 andiamo a indagare le priorità degli eurodeputati italiani. Ostra i microfoni Simona Bonafè, eurodeputata PD e gruppo socialisti e democratici, nonché membro della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Devo dire che entrare è stata comunque una grande emozione, anche perché insomma è un consesso importante, l'espressione della sovranità e della democrazia dei cittadini europei, per cui è un grande onore. È stato un grande onore, ma sicuramente anche una grande emozione. E, certo, adesso c'è da lavorare, anche perché in campagna elettorale abbiamo preso degli impegni molto seri nei confronti dei cittadini, abbiamo ottenuto un risultato molto importante proprio perché siamo andati a raccontare l'idea d'Europa che volevamo, che è un'Europa che deve cambiare dall'Europa attuale. Come? Come? Noi abbiamo detto più volte che insomma a noi l'Europa dell'austerity stava un po' stretta, abbiamo detto più volte che questa attenzione solo ai vincoli di bilancio, questa attenzione solo appunto all'economia non bastava. Oggi dobbiamo costruire l'Europa dei cittadini, dobbiamo costruire l'Europa che dia le risposte ai problemi veri dei cittadini, che sono la disoccupazione, che sono la crescita economica. Quindi insomma abbiamo da lavorare parecchio, c'è la consapevolezza da parte di molti parlamentari, a parte gli euroscettici chiaramente, che oggi ci sono le condizioni per costruire un'Europa diversa. Quali sono i dossier concretamente lei pensa questa legislatura debba chiudere, soprattutto per respingere un po' l'onda euroscettica che si è manifestata alle ultime elezioni? Guardi, penso che ci siano diversi dossier aperti, penso che quelli più importanti debbano essere quelli appunto che riguardano lo sviluppo, che riguardano l'interpretazione del patto di stabilità e con un occhio ai margini di flessibilità già previsti all'interno del patto di stabilità, i dossier sull'energia. È chiaro che oggi insomma la sicurezza energetica, l'approvvigionamento energetico, quale energia vogliamo mettere in campo, sono tutti temi sui quali noi dobbiamo fare riflessioni molto seri, anche perché la competitività dell'Europa si gioca anche sull'energia e sulla sostenibilità ambientale. E poi indubbiamente lotta alla disoccupazione, quindi direi che il lavoro che ci aspetta è tanto e lungo. E lei personalmente dove si impegnerà? Quali risultati intende portare a casa questi 5 anni? I temi che le parlavo sono temi dei quali potrò occuparmi anche direttamente. Poi insomma non ci dimentichiamo che noi abbiamo un grande appuntamento internazionale che è l'Expo, e anche su questo io penso che l'Europa possa dire qualcosa. Farete gioco di sponda con la presidenza italiana in questi 6 mesi e come soprattutto? La presidenza italiana è un appuntamento importante, molto importante per l'Italia, ma anche per l'Europa, oserei dire. Fra questi temi io penso che un'attenzione rilevante sarà data alla politica del Mediterraneo e sarà data ai temi dell'immigrazione, perché insomma anche su questo bisogna dirlo, cioè i dati oggi parlano chiaro, 50.000 sbarchi in Sicilia nei primi 6 mesi e insomma capiamo subito che l'Italia non può essere lasciata da sola, quindi fa bene il Presidente del Consiglio a dire che Mare Nostrum è un'operazione che oggi non può ricadere solo sulle spalle degli italiani, ma che è un'operazione che deve essere ricompresa in Frontex e che Frontex debba diventare non una un coordinamento di politiche, ma un'agenzia operativa vera e propria pagata dall'Unione Europea, per esempio. Un'ultima cosa, erate 5 capo di lista donne, poi però nelle nomine sono stati quasi solo uomini. C'è anche un discorso di parità di genere, forse da riproporre anche qui nelle cariche interne. Oggi a me interessa poco chi va a coprire certe posizioni, ma mi interessa molto di più capire che cosa andiamo a fare concretamente come italiani e come gruppo SND in generale e come parlamentari europei. Le dicevo prima, i temi di cui ci dobbiamo occupare sono tanti, per cui, e soprattutto dobbiamo veramente lavorare per un'Europa diversa, per cui a me interessa il risultato finale. Poi bene che lo portino avanti anche le donne, avremo occasione di farci valere nel lavoro quotidiano. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.